Magari, mi dirai, chi non desidera vivere per sempre e, casomai, anche senza nessun problema? Ma purtroppo tu sai che vivere per sempre non è possibile perché, prima o poi, tutti dobbiamo morire. Perciò, se qualcuno dichiara che è possibile non morire, tu non gli credi, come del resto, neppure io ci credo. Eppure, nel tuo e nel mio cuore è radicato il grande desiderio di vivere per sempre. Per stare con coloro che amiamo e che ci hanno amati. Tu ed io comprendiamo che la morte non è umana, comprendiamo che la morte è ingiusta, che il fatto di doverci separare per sempre dai nostri cari non è conforme alla nostra aspirazione, ma, nonostante tutto, dobbiamo sottostare all'inesorabile legge della morte. Però, in questo sconforto umano, si eleva una voce che, può essere ascoltata almeno per curiosità ed è un richiamo a te noto fin da piccolo. È la voce della tua religione cattolica romana, il cui insegnamento da sempre è che Gesù Cristo non ha mai mentito. Una voce affermante da sempre che Gesù è la verità e che possiamo ascoltarlo senza timore alcuno di essere ingannati. Tra le tante cose dichiarate da Gesù in merito alla morte, spicca una affermazione. Tra le tante da lui rilasciate, degna di essere ascoltata. La troviamo nel Vangelo di Giovanni. Io sono la risurrezione e la vita. Chiunque crede in me, anche se dovesse morire, vivrà. Quando si parla della morte, non è il momento di scherzare. Inoltre, Gesù non ha mai detto qualcosa che non corrispondesse alla verità. Il Figlio di Dio, perciò, non ha solo spiegato che tutti dovranno morire, ha pure dichiarato che la morte non è la fine di tutto, ma è l'inizio di un'esistenza senza fine. Dunque, è necessario ritenere la morte un evento che chiude un breve periodo per dare inizio ad una durata di tempo interminabile, oppure grazie al quale si spegne la lampadina perché finalmente si è fatto giorno. La morte è la parte più importante della vita perché è la fine di ciò che spesso è ragione di pianto, segna un inizio di tutto ciò che sarà motivo di gioia. Questa è la morte. Questa è la realtà. Ma non tutto sarà automatico, perché Gesù ha pure detto: chi crede nel Figlio ha vita eterna, ma chi non ubbidisce al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio dimora su di lui. Gesù ha parlato di vita eterna, ma ha pure annunciato una morte eterna. E se la vita eterna è un'esistenza di gioia senza fine, va da sé che la morte eterna è un'esistenza di altrettanta sofferenza. Se tu hai creduto fino ad oggi alla tua religione che ti ha sempre insegnato che Gesù ha sempre eterna preparata per chi ha posto fede in Cristo quale salvatore personale, allora non puoi esimerti dal credere che esiste anche una separazione dal. Nota bene, Gesù non ha considerato quello che fai, non ha tenuto in conto la tua buona condotta, ma ha parlato di fede. La fede ti può dare accesso alla vita eterna. La mancanza di fede ti prepara alla perdizione eterna. Non è saggio buttare via questo messaggio, come non è saggio buttare via una medicina che ti può guarire solo perché è amara. Tu non devi avere paura della morte, ma devi avere paura di non avere ancora cominciato a vivere, perché purtroppo essere religiosi non è sufficiente per entrare nella gioia eterna. Al tempo di Gesù c'erano migliaia di religiosi, migliaia di sacerdoti e un sommo sacerdote come oggi sarebbe il Papa, ma tutti erano perduti. Appartenevano alla vera religione. Esattamente come tu oggi appartieni alla vera religione, ma poiché non avevano accettato che Gesù fosse il loro Salvatore, erano sotto l'ira di Dio. Come posso sapere se io possiedo quella fede che mi rende in grado di accedere alla beatitudine eterna? Esiste un metodo sicuro. Se tu in questo momento puoi dire che i tuoi peccati passati, presenti e futuri sono stati cancellati una volta e per sempre dall'opera di Cristo e che non devi fare più nulla per meritare il cielo, se hai la certezza ora di andare alla presenza di Dio, allora hai la vera fede che salva. Diversamente in questo momento sei sotto l'ira di Dio. Vuoi vivere per sempre? Questa tua aspirazione sarà esaudita. Ma ciò che ti deve preoccupare è come vivere per sempre. Se continui a vivere come hai sempre vissuto, sei sotto il giudizio di Dio. Se invece ti consideri perduto e degno della condanna eterna, Gesù, che è morto per i perduti come me e te, ti vuole salvare ora. Se tu credi che lui possa farlo, e se lo invochi una volta per sempre perché ti salvi da tutti i tuoi peccati, in questo momento tu vivrai per sempre nella gioia. E è una scelta che devi fare e che Dio non può compierla per te. Gesù disse, «Chi non è con me, è contro di me». Non ha detto che le brave persone sono con lui, non ha detto che gli indecisi sono dalla sua parte, come non ha detto che sei religioso sei a posto, ma ha sottolineato che se non sei dalla sua parte, se non ti schieri contro chi rifiuta Cristo e lo ritiene solo un bravo uomo o anche un superuomo, non sei con Cristo, cioè non appartieni a lui per essere con lui quando sarai alla sua presenza per essere giudicato. Gesù ha detto ancora, «Chi dunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io riconoscerò lui davanti al Padre mio che è nei cieli». Ma chiunque mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io rinnegherò lui davanti al Padre mio che è nei cieli. Matteo 10, 32-33. Poiché Dio ha dato tutto nella mani di Gesù, poiché Gesù sarà colui che giudicherà ogni essere umano, se Gesù ti riconoscerà innocente perché hai posto una fede reale e salvifica in lui, egli dirà davanti al Padre che tu sei completamente perdonato, diversamente dirà che, per quanto gli riguarda non sa chi sei, e con i tuoi peccati andrai in un luogo separato da Dio e da Gesù Cristo, cioè nelle pene eterne. Proprio perché il mio desiderio è che tu faccia una scelta giusta e opportuna per te, ti voglio parlare del futuro. Molti pensano che dopo la morte tutto sia finito, poiché vediamo che il nostro corpo si dissolve in polvere. Questo è vero, anche perché Dio lo aveva detto, tu sei polvere e in polvere tornerai. Quindi, ciò che vedi è la realizzazione dei piani di Dio. Però, non devi solo fermarti a questa promessa di Dio, perché ogni giorno, davanti ai tuoi occhi, vedi realizzata anche un'altra grandissima promessa di Gesù e opera di Dio. Cioè che la morte non è la fine di tutto. Ti chiederai a cosa mi riferisco, e prima di tutto mi riferisco a Gesù Cristo, che benché fosse anche accertato morto dai soldati romani che lo avevano crocifisso, dopo 3 giorni è risorto. Perciò non puoi neppure dire che nessuno è tornare dai morti per dirci come stanno le cose nell'aldilà. Potrai avanzare delle perplessità dicendo che Gesù non lo hai mai visto, ma è una risposta molto debole perché quante cose non hai mai visto eppure ci credi. Hai mai visto Ponzio Pilato, Nerone, Giulio Cesare, Napoleone, Garibaldi o anche mio nonno? Non credo. Eppure la loro esistenza è stata certa come è certo che tu vivi, non puoi credere solo a ciò che vedi. Altrimenti sei in una condizione disperata. Inoltre, come ho detto, Dio ti dà una testimonianza della resurrezione ogni giorno. Sai con che cosa tramite il creato? Apri gli occhi. Guardati attorno. Tutte le piante che vedi, il pane che mangi, nascono da un seme che prima era morto sottoterra. Ogni giorno vedi risuscitare migliaia di semi morti. Con il creato Dio ti vuole parlare e ti annunzia che dopo la morte vi è la resurrezione del tuo corpo. Proprio perché la tomba non è la fine di ogni cosa, proprio perché la morte è la debole lampadina della vita che si spegne perché si è fatto giorno. Proprio perché questo seme della nostra vita deve morire per sviluppare la poderosa quercia, io aspetto con moderata e divina ansia l'esistenza dopo la morte. Come sarà? Come posso avere delle risposte certe e soddisfacenti a questo mio sano desiderio? Io non ho risposte come tu non le hai. E nessuno può darle, ma colui che è risorto, cioè Gesù Cristo, ha detto tutto quello che abbiamo bisogno. Ecco perché devi credere nella resurrezione di Gesù. Non è solo un dovuto gesto religioso, ma perché accetti da lui anche ciò che ha detto in merito al futuro. Questo lo troviamo scritto nella Bibbia. Mi dirai come faccio a credere che la Bibbia sia la parola di Dio e quindi dica la verità? Domanda più che lecita, ma io ti chiedo, secondo te potevano degli uomini normali come me e te scrivere quello che hanno scritto? Può un essere umano dire che tutti gli uomini sono figli del diavolo, che Gesù Cristo è morto per tutti e che la salvezza si ottiene senza meriti ma solo per fede? Conviene allora ascoltare ciò che Gesù ha detto. Gesù ha sempre parlato che dopo la morte vi sono solo 2 luoghi, chiamiamoli come vogliamo, inferno o paradiso, oppure pene eterne o gioie eterne. Ma i luoghi sono solo 2. Chi aggiunge altri luoghi, sono invenzioni pure dell'uomo. Se uno vuole pensarla diversamente è libero di farlo, ma non è libero di accettare le conseguenze della sua scelta. Come è l'inferno? Gesù lo ha definito come un luogo dove i perduti sono respinti dalla presenza del Signore, 2 Tessalonicesi 1:6-10. Dove si soffre nel vedere i credenti nella gioia, Luca 16:19-31. Dove i perduti hanno la terribile consapevolezza dell'impossibilità di poter passare dall'inferno al paradiso. Dove i perduti hanno il rimorso di aver perduto l'unica possibilità di salvezza. Dove si soffre fisicamente. Una descrizione di questo luogo molto terribile, e per quanto tu abbia dei dubbi, hai tutto l'interesse di accertarne l'esistenza. Se io ti dicessi che in casa tua ho visto un serpente velenoso, dormiresti tranquillo? Puoi non crederci, ma sono sicuro che farei le dovute indagini, come fanno le dovute indagini gli artificieri quando dicono che vi è una bomba su un aereo o in una stazione. Che indagini puoi fare? Indaga se Gesù ha mai detto delle cose false, perché se, come è stato dimostrato, non ha mai detto una menzogna, conviene darsi da fare per arrivare a delle certe conclusioni. Così, se quello che Gesù ha detto non è vero, allora cattolici, protestanti, ordissi sono tutti nell'errore, e tu non devi pregare, andare a messa, sposarti in chiesa, battezzare i tuoi figli. Tanto è tutta una farsa. Se invece Gesù è la verità, allora reagisci adeguatamente. Pregalo, accettalo come il tuo personale salvatore e padrone della tua vita. Adoralo e servilo. Ma non puoi rimanere neutro, cioè rimanere quello che sei. Sia ateo, sia formalmente religioso. Per chi accetta per vere le parole di Cristo, vi è la prospettiva di una gioia eterna, vi è il totale riposo da un'esistenza logorata per combattere il male, come vi è il dolce e meraviglioso servizio di servire Gesù Cristo. Inoltre, alla presenza di Cristo, si avranno le risposte ai tanti interrogativi sull'esistenza umana e sulla persona di Gesù, come si riceveranno le varie ricompense per la fedeltà mostrata sulla terra. Ricompense e non meriti. Inoltre, è mia convinzione, sempre basata sulla parola di Dio, che il mondo futuro non sarà poi molto diverso dal nostro mondo attuale, anche perché se ciò che è terreno è il riflesso del celeste, abitazioni e piante saranno presenti. Vuoi vivere allora per sempre? Vuoi vivere per sempre con una vita molto simile alla nostra, senza ovviamente quello che ha inventato l'uomo? Adamo e Eva non avevano macchine, treni, grattacieli, ma stavano bene. Anzi, benissimo e appagati. Se rifiuti Cristo e le sue parole, sarai costretto ad andare in un luogo a te sconosciuto, non umano, un luogo di terribili e terrificanti dolori. Dio non lo vuole. Se la tua volontà si allinea con quella di Dio, e così anche con la mia, la salvezza è molto vicina. Credi in Cristo e Lui ti terrà per sempre nella sua mano. 201-2122 Ellero